Radio 24 da oggi è ancora più, come si dice, easy anche sulla rete. www.radio24.it, infatti, il nostro sito, è diventato ancora più ascoltabile in diretta, più visibile grazie alle nuove webcam e più consultabile nell'archivio. Sono aumentate le possibilità di fruizione del nostro immenso archivio e dei nostri programmi, che aumenta il numero di quelli scaricabili in podcast. È più facile ascoltarla, dunque, ma anche più facile vederla con le nuove webcam dai nostri studi. È anche più facile interagire con la redazione attraverso i blog e i forum con i conduttori. Insomma, al centro dell'attenzione, noi Radio 24 abbiamo sempre soltanto un soggetto, l'ascoltatore. E come deve fare un buon servizio che sia destinato al pubblico, ai nostri ascoltatori siamo sempre più vicini. Chi ci segue lo sa, se siete sintonizzati su Radio 24, ogni volta che succede qualcosa di importante, lo sapete subito. Grazie per continuare a preferirci.